Ad alta voce, edizione 20 anni. Giovanni Ludeno legge Acido lattico di Saverio Fattori. Nona puntata. Cherono mi ha staccato, ho iniziato a gridare. I ragazzi dei preatletici hanno interrotto i balzi. Roberto è rimasto a bocca aperta. Assomigliava a una specie di grosso pesce gatto. Le mie grida erano rantoli striduli emessi in debito di ossigeno. Poi ho perso metri su metri e mi sono fermato a vomitare nella buca della riviera dei 3000 siepi. Roberto ha richiuso la bocca. Ho vomitato filamenti trasparenti mentre il cronometro continuava ad andare. La bocca dello stomaco era un cratere acido. Cherono ha interrotto la corsa e mi ha tenuto la fronte. Roberto ci ha raggiunti e si è goduto la scena da una decina di metri. Mi raddrizzo e con un gesto ruvido allontano il nero. Senti, da quanto non fai gli esami del sangue? Appena ritirati. Che dicono? Non so. Ho buttato l'occhio solo sui miei numeri a sinistra. Ho evitato il confronto con quelli a destra. Bravo, hai gli occhi gialli. Nelle gambe ho già un 5000 da 13,40. Magari potrei andare nel gruppo sportivo dei finanzieri. Il colore degli occhi si intonerebbe alla canotta. Che hai fatto negli ultimi giorni? Nemmeno Sara sapeva dov'eri. Sara non sa un cazzo di niente. All'inizio pensavo fosse un buon business una fidanzata deficiente. Oggi non lo so. Vatti a fare la doccia. Ho problemi di digestione, fitte allo stomaco, un'acidità di stomaco permanente che non è ancora ulcera, ma qualcosa del genere, forse un'ernia iatale gigante. Ho ripreso a dormire. Non c'è ragione di attaccarsi al computer. Clara non risponde più. La mattina rimango inebetito almeno un paio d'ore prima di trovare la forza di abbandonare il letto. Esco tardi per il primo allenamento. Sballo i tempi del pranzo. Il pomeriggio devo tornare a letto con la digestione in corso. Alle 5 mi sveglio ruttando. Poi vomito materie indefinibili alla riviera delle siepi. La sera sono nervoso. Ho interrotto qualunque tipo di frequentazione. Sara nemmeno se n'è accorta. Non se ne lamenta. Lei fa molto tardi in ufficio. Spero si veda con qualcuno. Nel nostro PC ho trovato un file. Sara report amministrativi. Una sottocartella conteneva una cinquantina di video porno. Ne ho aperto solo uno, salvato con il nome Best Best Best. Finalmente ho scoperto quali sono i veri desideri di Sara, o almeno le sue preferenze. Piuttosto scontato il video. Tre negri e una donna bianca molto esile al centro. Il sito è indicato in basso sulla destra. Wrong Side Town, la parte sbagliata della città. Altri video fanno riferimento a Sex and Submission. Non si conoscono mai le persone che ci sono più vicine. Poco importa. Da quanto ne so, Sara è la classica ragazza frigida, senza fantasie estruse durante l'atto sessuale. Rifiuta il fucking talking. Non dovrei resistere alla tentazione di guardare i video. Dovrei essere indignato, deluso, divertito, almeno sorpreso, magari favorevolmente. Dovrei essere qualcosa. Potrei eccitarmi, proporle giochetti che non abbiamo mai fatto nemmeno i primi tempi del fidanzamento. Negli ultimi mesi ho risolto l'esubero di testosterone chiuso in bagno a masturbarmi pensando a Clara. Giulio arriva al campo dopo l'allenamento, non si preoccupa di nascondere una freddezza punitiva, non mi chiede nulla degli ultimi lavori, sa tutto. Sono di un pallore malaticcio, gli occhi segnati di rosa, sembra un albino. Sa tutto dell'involuzione tecnica delle ultime 2 settimane. Mi chiede solo se ho bisogno di qualcosa. Scuoto la testa, troppo, come se dovessi farmi uscire acqua salata dalle orecchie. Devo sembrare un matto. Aspira forte, mi racconta di Gaudenti. In una mezza maratona in Svizzera è arrivato addosso a 3 keniani di prima schiera. Sa di farmi male, vuole farmi male. Mi guardo le punte delle scarpe chiodate, prima una poi l'altra. Il suo tempo è la nona prestazione assoluta di un atleta italiano. 21 chilometri corsi in 62 minuti e pochi secondi. L'esattezza metrica della gara è assicurata dall'AIMS, o l'organismo che certifica le gare internazionali su strada. Dico, vabbè, poi sono svizzeri, ridacchio isterico. Forse sto davvero diventando matto. Gaudenti è un perdente nato, negato per questo sport. Te lo ricordi anche tu, no? Era una pena vederlo partire come un razzo per poi scoppiare come imbottito di tritolo. Era una noia stare a sentire le sue balle. Se ti fa piacere ricordarlo così, e tu come lo ricordi? Come un ragazzo pieno di passione e volontà. Solo doveva ancora terminare lo sviluppo fisico, era un bambinone. I pochi risultati che avevo ottenuto erano arrivati nonostante valori di ematocrito e di emoglobina da terzo mondo. È bastato fare normali esami ematici per scoprire che aveva sempre corso con questo handicap. Riportare questi valori alla normalità ha rivelato il vero potenziale. Da ragazzino insisteva perché dentro di sé doveva sentire questa forza. Partiva da campioncino, poi i battiti cardiaci aumentavano fino a farlo scoppiare. Correva con l'organismo debilitato, ecco perché non poteva competere con i migliori della sua categoria, ecco perché lo battevi. Matteoli si è beccato 2 anni di squalifica. C'è stata anche un'interpellanza parlamentare relativa agli integratori inquinati, ma non ci sono stati cazzi. Poi, se le controanalisi confermano la positività, parte la squalifica. Il medico federale impietoso ha dichiarato ad una testata giornalistica che a 36 anni si è alla frutta e si provano tutte le strade, ma fuori dalla federazione. Sono scelte personali, compiute nella consapevolezza dei rischi. Ha omesso di dire che si provano sulla propria pelle, ignora la disperazione. Cita il capo d'imputazione, truffa sportiva. Giulio ha impiegato alcuni secondi per ritrovare il nome Matteoli nel suo cervello, già dimenticato. Quando un atleta è beccato positivo è perché ha perso interesse nell'ambiente e deve recarsi nelle farmacie dei paesi più tolleranti a elemosinare farmaci, in Svizzera o a San Marino. Giulio non sa dirmi se la famiglia continua a farlo pedinare temendo il suicidio, né se la fidanzata lo ha lasciato. Dice che probabilmente userà l'escamotage del tesseramento amatori per continuare a gareggiare, perché l'atletica è la sua unica ragione di vita. Sarà disprezzato dagli altri atleti che non gli rivolgeranno la parola e si rifiuteranno di presentarsi alle premiazioni insieme a lui. Ci sono precedenti analoghi. Torna all'attacco. Davvero non mi serve nulla? Mi assicura che l'IGF-1, un ormone della crescita, non viene beccato dall'antidoping. Da un piccolo pacco rivestito di nastro isolante posto ai suoi piedi estrae un'ampolla, un piccolo decanter, una specie di clessidra riempita per un terzo di polvere bianca. Eroina ride. Va diluita nell'acqua distillata e iniettata sotto pelle come lepo. La prima volta mi darà una mano per preparare la soluzione e iniettarmela. Roba buona messicana. Penso ai giovani americani sballati dalla Beat Generation. Si diverte a farmi sentire un tossico. Presumo di lato il suo senso di potere verso la mia completa sottomissione. Dice che non vuole soldi. Dice che crede ancora in me. Dice che in federazione mi osservano con interesse. Dice di ritornare dal medico di Sorate. Dice cazzate. Dico grazie. Ha la pelle nerissima, il viso devastato da eruzioni, occhi pallati e dentatura sporgente. La sproporzione tra le dimensioni della testa e il resto del corpo ricordano un film americano di fantascienza che mi sono sempre rifiutato di vedere. Le braccia scivolano inermi lungo i fianchi. La madre gli appoggia una mano al centro della schiena, con l'altra ci saluta oltre la rete del campo. Il bambino invece non riesce a puntare lo sguardo verso di noi. Fissa il terreno oscillando il capo. La donna è la classica venere afroamericana, altezza sopra la media, culo un po' troppo grosso ma sodo e sporgente. La pelle è liscia, il naso non è schiacciato. Roberto esce dal cancello e li va a salutare. È in intimità, abbraccia il bambino che continua a vagare nei suoi pensieri senza interagire con il mondo esterno. Sono infastidito, questo quadretto imperfetto mi fa sentire al solito inadeguato. Il fatto che il figlio di Cherono sia visibilmente autistico mi autorizza a continuare con discorsi tecnici post-allenamento senza fingermi affettuoso. Non riesco mai a simulare affetto o simpatia per i bambini. Non riesco ad approcciarmi come fossero piccoli adulti finiti. Avrà 6 anni, più o meno l'età dell'abbattimento del muro dei 27 sui 10.000. È stato concepito quando suo padre era al top della forma fisica, probabilmente pieno di steroidi anabolizzanti. Roberto mi prende da parte. Giulio ti ha detto di usare anticoncezionali quando prendi certe porcherie? Non sono scosso dal tono esplicito. Ovviamente lo sbirro buono è al corrente di tutto. Penso che sia un ipocrita che cerca di portare in salvo la sua coscienza sporca. Non ti preoccupare di questo. Cerca di non fare del male alle persone che ti stanno attorno. Perché di te come persona non me ne frega un cazzo. Fosse per me lascerei perdere. Mi pagano per allenarti, è uno sporco lavoro, ma comunque un lavoro. Non mi sei mai piaciuto, Claudio. Puoi sempre allenare un cantante che vuole scendere sotto le 4 ore nella maratona di New York, o una testa di cazzo di attore. Potresti definire il compenso con il suo agente, un trapiantato di cuore. Ci sono un sacco di sfide, tutte retribuite. Sempre meglio che avere a che fare con uno come te. Magari qualche rivista ti dedica un servizio e ci scrivi un libro. Ecco come ho preparato un malato di sclerosi multipla per la 100 chilometri del Sahara. Una disgrazia potrebbe deviare il corso degli eventi, il flusso dei miei pensieri. Un incidente, una malattia lenta e sfibrante. Qualcosa che recida violentemente le consuetudini, ciò che do per scontato. Che rimetta in discussione tutto. Un referto istologico che parli di cancro, celandosi dietro termini medici per farmi sprofondare e riemergere in un altrove tragico. Una degenza ospedaliera, la perdita improvvisa delle persone che mi stanno attorno e che in qualche modo si occupano di me. Cose così dovrebbero incrinare il mio egoismo. Potrei rivelarmi un essere migliore, trovare il gusto delle piccole cose, piantarla con la fissazione olimpica, con il mio delirio egocentrico. Con Roberto do il peggio di me, quando non trovo altro che la sgradevolezza per rendermi al meglio. Posso guadagnare la doccia e lasciarmi alle spalle le sue maledizioni e la famiglia di Cherono. Arrivo nella città dove abita Clara. Internet è fantastico per raccogliere informazioni, poi occorre acquistare biglietti ferroviari e fare cose via via più concrete. L'istituto privato dove insegna lettere e filosofia è sulle prime colline. Ospita i ragazzi anche nel pomeriggio. La retta deve essere altissima. È gestito da suore con un abbigliamento incerto tra il civile e il sacro. Si sono decise ad aprirmi il cancello dopo alcuni minuti. Al citofono mi presento come giornalista. Mi occupo di ex atleti che hanno avuto successo anche nel mondo della cultura. Non mi viene in mente altro. I corridoi puzzano di mensa. La suora che mi accompagna dal direttore è parsa subito imbarazzata. Cammina 1 metro avanti a me e non si volta per rispondere alle mie domande sulla scuola. È il soldato scelto di un esercito che detesto, di una guerra che non è mai stata mia. Tutto ciò che è religione mi atterrisce. Il direttore, come sospettavo, è un prete in borghese. Lo intuisco dai gesti attutiti e dal ritmo delle frasi. Sa come si parla di dolore senza esserne coinvolto. Conosce l'invulnerabilità del pulpito. Lo apprendo per la prima volta da questo manichino. Clara Arlati si è data la morte. Pensa che io sia lì per raccogliere informazioni. Si mostra sospettoso. Temo che siano emersi fatti che giustificano un'indagine. Mi ha preso per un avvoltoio. Di quelli che si avventano sui cadaveri per renderli digeribili a lettori morbosi. A lui interessa che l'istituto non venga coinvolto in nessun episodio riconducibile alla cronaca nera. Clara Arlati si è data la morte. Questa frase mi rimbalza in testa. Il mio cervello finge di non coglierne il senso, poi si arrende. Avverto i globuli rossi in ritirata mentre i bianchi rimontano nell'organismo già debilitato. Conto 13 crocifissi che arredano lo studio. Poi la nausea mi sale alla gola. Vedo le labbra del prete muoversi, ma non sento nulla. Era una brava ragazza, amata da tutti, così diversa dai suoi coetanei. Gli studenti e i colleghi la rispettavano e le volevano bene. Impossibile dire cosa minasse il suo spirito fino a farle compiere un atto così tragico. Non mi interessano le sue parole. Vorrei che questo edificio implodesse seppellendo anche me. Le creature mostruose che lo abitano hanno goduto della presenza fisica di Clara, senza meritarla. L'istituto pullula di ragazzini puliti e mediocri destinati a carriere favolose, rampolli viziati di famiglie importanti, padri massoni e madri che non si rassegnano alle rughe. Mi attaccherò alle mail di Clara, moderne reliquie che mi sono guardato bene dal cancellare. La suora ha pietà di me. Non so se la recupera dai precetti della sua religione o da un'etica universale che dovrebbe presiedere qualunque azione umana. Mi scorta verso l'uscita e prima di chiudere il cancello decide che può darmi qualche informazione, le poche di cui dispone. Mi pare sincera e non insisto più di tanto. Anch'io detesto curiosi, giornalisti e sbirri in genere. Dice che Clara non aveva fidanzati. Dice che non era una cristiana praticante. Era una ragazza strana, ribelle e rispettosa al tempo stesso. Lei e il direttore si erano trovati in disaccordo. Dice che potrei contattare una certa Sandra, l'unica coetanea presente al funerale. Strano per una ragazza così giovane. Di norma attorno alla famiglia si coagulano almeno i compagni di studi. La decisione di cambiare città per recidere un segmento di vita aveva funzionato anche troppo bene. Sandra si presenta come poetessa e parte male. Avrò di sicuro difficoltà di comunicazione con una persona che mi oppone una simile carta d'identità. Ha il bacino grosso e le lentiggini. Descrive Clara come una ragazza piena di vita. È scossa da singhiozzi e il filo della voce a tratti perde consistenza. La ricorda fragile, tormentata ma combattiva. Di recente Clara si era impegnata in un comitato che si opponeva ai lavori dell'alta velocità in una valle del Piemonte. Non riusciva a darsi pace, diceva che non era più tempo di poesia. Avrebbe lasciato perdere questa fase della sua vita, come aveva smesso di praticare l'atletica agonistica. L'Italia è un paese di merda. I paesi di merda non chiedono poesia, non meritano poesia. La poesia è abortita. Nell'istituto per rampolli viziati Clara aveva problemi. Alcuni genitori si erano raccolti in un comitato avanzando critiche sui suoi metodi di insegnamento. Il libro di testo da lei proposto aveva contenuti erotici espliciti. In realtà i genitori le rimproveravano la sua sincerità durante i colloqui. Li metteva di fronte ai limiti della loro genia. Sandra mi aveva passato un foglio stropicciato con frasi scritte da Clara. Era il tovagliolo di carta di una pizzeria. Quell'orda di commercialisti, avvocati, dirigenti di banca, ha generato creature insicure e arroganti, per nulla curiose, dotate di vitalità intellettuale ridotta a tracce. Cervelli cementificati e desertificati, nei quali fatica a crescere anche l'erbaccia. Non sono altro che mostriciattoli rigurgitati dall'immaginario televisivo. Mostri. Sono solo mostri. I genitori giustificavano i loro figli a scuola, le loro mancanze nel profitto e nel comportamento, se li stringevano al fianco e smontavano pezzo pezzo le sue tesi, minimizzando e contrattaccando. Non ci poteva essere nulla di più diseducativo. L'orda allenava i propri cuccioli all'esercizio del potere. La sera del foglietto, Clara era disperata. Era stata convocata dal direttore che le aveva dato un ultimatum. Clara era paralizzata dalla rabbia, una paralisi artistica ed emotiva che la faceva sentire violenta e inerme. L'amica aveva confermato che tutti i giorni trovava il tempo di fare almeno un'ora di corsa da sola. Avevo insistito su questo aspetto. È diverso correre soli rispetto alla condivisione del gesto in piccoli gruppi che parlottano nei primi minuti dell'allenamento. La poetessa queste cose non le può sapere. Ha i fianchi larghi. Clara non aveva mai cercato compagni di allenamento, nessun walkman a disturbarle i pensieri. Correva su un percorso serpeggiante lungo il greto di un fiume inquinato, punteggiato da colori degli accampamenti nomadi. Non l'avevano mai infastidita. Amava la fotografia. Spesso tornava sul fiume con una macchina digitale a imprigionare quel paesaggio di natura disordinata. La poetessa mi apre un ventaglio di foto sul tavolo del bar. Alcune le avevo già viste sul blog di Clara, le altre dovevano essere più recenti. Si aspetta un sussulto emozionale da parte mia. Due lacrime verticali tagliano le sue guance. Queste immagini dovrebbero risultare evocative. Non sono mai colpito dalle foto. La vita è una corsa rettilinea senza senso e non c'è proprio un cazzo che valga la pena di congelare. Nell'ultima settimana ho intrapreso un ciclo di Dianabol e metandrostenolone, 4 compresse al giorno. Dalla prossima inizierò ad assumere anche 200 mg di Primobolan. Sono già in pieno benessere anabolico, euforia e autostima alla larga da scosse emotive. Forse è per quello che rimango impassibile davanti ai tramonti sul lungo fiume. Una grossa casa editrice milanese aveva commissionato a Clara la traduzione di una giovanissima scrittrice russa. Si trattava di merda pura, ma una ragazzina russa che parla di sesso libero e droga è un discreto investimento. Era già un successo in mezza Europa. La casa editrice pagava, poco, ma pagava. Il volontariato culturale iniziava a innervosirla, almeno quanto i lavori dell'alta velocità. L'insegnamento all'istituto rimaneva l'unica fonte di reddito. Non le aveva mai parlato di me, mai nominato nuove amicizie via mail. Una piccola fitta al centro del petto mi fa strizzare gli occhi e piegare su un fianco. Era un dolce segreto da non condividere nemmeno con l'amica, oppure un particolare trascurabile. La poetessa potrebbe essere una millantatrice per nulla intima di Clara, una povera folle facile alle lacrime per la morte di una persona che conosceva solo di riflesso. Una persona infelice, che gode nel raccontare aneddoti tristissimi a uno sconosciuto che non si è nemmeno presentato. E non è vero che non gli ha mai parlato di me. Si tradisce con riferimenti alla mia persona di cui non ho fatto cenno. Poetessa e bugiarda. La saluto, lei mi stringe, la stretta dura pochi secondi ma pare infinita. Rimango rigido. L'abbraccio è troppo robusto, malevolo. In questa sala del bar, insieme alla deficienza dei ragazzini del videopoker, aleggia anche il rancore di questa poetessa. Mi sono cambiato in macchina. Ho dovuto allontanare con decisione un paio di utilitari che mi ronzavano attorno. In questa zona, giovani ragazzi dell'est Europa si concedono in modo scorbutico a disgustosi italiani di mezza età. Non più di un mese prima, un 17enne kosovaro aveva spaccato la testa di un pensionato a colpi di pietra. Non so per quale motivo la poetessa ha tenuto a mostrarmi dei ritagli di giornale che parlano del degrado del lungo fiume. La poetessa mi aveva indicato il punto esatto da cui Clara partiva per l'ora di corsa quotidiana, un paesaggio di terra dal colore grigio tra la vegetazione. Da quando mi sono reso conto di non avere alcuna speranza olimpica, eseguo automaticamente azioni fuori da ogni logica, in assenza di strategie. Come correre sul medesimo percorso su cui correvo una ragazza che si è affogata di pasticche, lasciando di sé un ricordo penoso e sgradevole. Ricalcare i suoi passi per cercare di capire. Avrebbe potuto parlarmi dei suoi problemi nelle mail, avrei potuto salvarla. Ma perché aprirsi a un maniaco dell'atletica con psicosi multiple, amplificate dall'uso di stimolanti? Dopo 7:30 decido di tornare alla macchina. L'angoscia mi accelera il passo e il ritorno lo corro in 6:45. Un depravato con un riporto spaventoso mi avvista dalla strada e mi urla proposte inequivocabili. Risalgo l'argine con una marmitta arrugginita nella mano destra. Quello ingrana le prime due marce di una Fiat e sparisce su una strada secondaria. Clara non avrebbe mai potuto frequentare questa parte del fiume senza essere molestata.